Nella sua esperienza, la città, il coordinamento, diciamo così, della polizia municipale, dei turni, dei passaggi che fanno per elevare poi queste sanzioni, è fatto con le forze dell'ordine? Cioè ci si focalizza naturalmente nei posti, negli snodi viari, nei luoghi della città in cui tradizionalmente il fenomeno era forte, per dire adesso diamoci un mese, due mesi, tre mesi di tempo e lì lo risolviamo, che non ci sia più sotto gli occhi dei cittadini? Funziona così o no? Sì, di fatto, siccome è un fenomeno che esiste e che al più si sposta, noi non lo tolleriamo nelle aree dove ci sono abitazioni, dove quindi c'è frequentazione dei cittadini, dove uno sotto le finestre giustamente non vuole un certo tipo di spettacolo. Poi se si spostano in altri comuni, in aree marginali dove non ci sono residenti, la cosa dà sicuramente un minor fastidio, e quindi ci si coordina con le altre forze dell'ordine, perché le multe le diamo noi, ma le dà anche la Polizia di Stato anziché l'Arma dei Carabinieri, e funziona. In generale, il cliente che a Verona si trova a dover dare questa sanzione, nella vostra esperienza, non sono mai successi fatti, cioè non hanno alzato le mani, i poliziotti municipali ci sono andati di mezzo, insomma piegano il capo e pagano? Sì, in generale la larghissima parte paga, qualcuno paga anche subito, ricorsi pochissimi, perché evidentemente c'è anche una forma di, diciamo, di vergogna, se possiamo usare questo termine, nel rivolgersi a un certo tipo di mercato, e quindi uno tendenzialmente a questo proposito così. Ricordo che l'ex ministro Giuliano Amato, ai tempi del disegno di legge Carfagna, lui fu tra i sostenitori un anno qualcosa fa del disegno di legge Carfagna, cioè delle pene anche fino all'applicazione di detenzione per i clienti, sia pure con pene detentive naturalmente che sono sotto la soglia dell'applicabilità, ma che però poi restano sul certificato penale. E Amato diceva: bisogna usare a tappeto le fotografie fatte dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale nelle strade, anche come metus reputazionale, cioè dire colpire nelle famiglie, che a me sembra un po' delicato. Lei che pensa di questo aspetto, sindaco? Ma che basta la multa elevata, con la multa elevata il fenomeno lo fai cessare. Resta l'aspetto che è quello più delicato, che se non viene regolamentato al chiuso, poi te le trovi nei condomini, tant'è che noi ci siamo anche lì abbiamo un po' stiracchiato un'ordinanza per andare comunque a colpirle anche al chiuso quando creano disturbo, perché se una prostituta esercita al chiuso e non crea disturbo a nessuno, nulla questio. Se invece crea disturbo al condominio, allora la si multa anche in quel caso, non tanto per l'attività di prostituzione che non è codificata, ma per l'attività di disturbo. E quindi in quel caso la sanzione a quanto arriva? La sanzione è progressiva, è 100 euro la prima volta, 250 dalla seconda e da 450 dalla terza in poi. Ah, questa non sapevo che si faceva anche nei condomini, quindi anche in casa, purché naturalmente la segnalazione deve essere di coinquilini casigliani che dicono... Li funziona, gli inquilini segnalano, ovviamente non basta la segnalazione, vale, ripeto, nel caso di prostituzione vale anche nel caso di disturbo conclamato, certo. Cioè di famiglie, certo, italiane o straniere che siano maleducate, che si comportano sistematicamente male, esce la municipale, sta lì nell'androne, accerta il disturbo, quindi il rumore, il disagio condominiale. Una volta che questo è codificato, perché la polizia municipale ha certificato che disturbo c'è, si emette la sanzione. Un'ultima domanda al sindaco Torre, che poi ci deve lasciare, poi dopo andiamo dal sindaco di Ravenna, ma se a livello nazionale passasse una norma per cui si reintroduce l'esercizio al chiuso ma in posti regolamentati con la regolare registro e magari le risorse ai comuni, lei che farebbe? Sarebbe contento? Diciamo, le risorse ai comuni, quello interesserebbe relativamente, il fatto che venga regolamentato sì, nel senso che bisogna assolutamente vietarlo dove ci sono contesti condominiali, non può essere fatto nei condomini, e poi va regolamentato, fatto un registro, controlli sanitari, esatto, tutto quello che si fa in quasi tutti i paesi occidentali. Esatto, perché altrimenti a me sembra lasciare tutto nell'ipocrisia, nella casa oppure per le strade, e in questo caso però i fenomeni di malavita e tutto quello che sta nella vita del nostro paese, da una parte facciamo per ipocrisia finta di non vederlo, ma dall'altra c'è. Quindi mi sembra una questione ragionevole. Grazie al sindaco Tosio. Eccoci tornati in studio. Stiamo parlando oggi della necessità, dell'opportunità di disciplinare in maniera più europea, meno ipocrita, il fenomeno della prostituzione. C'è, è una questione che si rivolge a un mercato di massa, lo sottolineo, nel nostro paese, cioè a milioni, purtroppo, di consumatori. Il purtroppo è mio, ma non do giudizi morali. Detto questo, da anni, dopo il 58, di volta in volta tentiamo di dare una regolamentazione diversa da quella che fu l'abolizione delle case chiuse, ovviamente, e che continua a punire lo sfruttamento, ma per tutto il resto lascia tra strade, dovunque nelle città, condomini, il fenomeno assolutamente non regolamentato. Dall'altra parte un'iniziativa, quella del Lombardore, della giunta, del sindaco di Lombardore, che dicono stasera ad adottiamo un ordine del giorno un po' provocatorio per dire apriamo una casa chiusa e ci prendiamo i soldi per il comune. Comuni che hanno fatto le ordinanze dopo il pacchetto di sicurezza per dare una svolta di sanzionatura, perlomeno per levarlo dalle città, quello che possono fare i comuni. E questo vediamo cosa ne pensate voi e poi facciamo rispondere alle vostre domande al sindaco di Ravenna che abbiamo collegato. Stefano da Treviso innanzitutto, prego Stefano. Buongiorno, io penso che, posto naturalmente che la prostituzione è un fenomeno deprecabile e anche fa il mercato del proprio corpo non sia una cosa moralmente giusta, penso, poi bisogna essere anche realisti e quindi penso sia opportuno regolamentare la cosa e dare a chi vuol fare questa professione poi la possibilità di farla in maniera sicura sia dal punto di vista sanitario, di sicurezza personale eccetera, e quindi che vi sia una regolamentazione, non che sia lasciato tutto in mano alla delinquenza e che giustamente uno faccia anche parte della comunità e quindi paghi anche le tasse sui propri redditi, insomma. Ok, quindi qui si chiede una regolamentazione nazionale. Antonella da Roma, prego. Buongiorno, io volevo ringraziare intanto questi sindaci perché finalmente qualche persona si occupa dei cittadini e non solo dei delinquenti. E veramente per dire la mia situazione, che sono anni che soffro di questa cosa, perché poi tra l'altro tutti fanno a scarica barile, nessuno ci dà delle risposte concrete quando ci lamentiamo, la polizia ci manda dal sindaco, il sindaco dalla polizia. Io vivo sulla Tiberina, una via che era stupenda perché una via la faccio tutte le mattine con i miei figli e spuntano dai cespugli queste donnine, che tra l'altro è una via dove muore ogni giorno una persona, ogni giorno c'è un incidente e questi incidenti spesso sono causati anche proprio da queste signorine che distraggono il guidatore, che sono un pericolo perché le macchine frenano all'improvviso, cioè neanche un morto al giorno fa andare lì la polizia e cercare di risolvere questo problema. E le vostre richieste di intervento non hanno sortito alcun effetto? Io ho fatto di tutto, ma ognuno fa scarica barile e le rispondo, la polizia mi dice di andare dal sindaco, quindi dico grazie a questi sindaci, ma poi la strafottenza di queste prostitute, perché non solo balletta, io vorrei sapere una cosa, se io un giorno per puro caso sbando per strada e ne uccido una, probabilmente andrò anche in galera, perché io se mi fermo per strada devo mettere il triangolo. Loro sulla Tiberina, non so se conoscete questa strada, ballettano 3.000 gruppi proprio al ciglio della strada, che potrebbero diventare anche pericolo per me che guido, perché mi può succedere che mi si scoppia una ruota, io sbando, divento anche assassina. E tra l'altro si fermano le fermate degli autobus dove mia figlia tutte le mattine prende l'autobus e viene scambiata per una prostituta, non la posso più fermare, la devo accompagnare tutte le mattine. E non solo, queste signorine si permettono di sedersi sui motorini dei nostri figli mentre aspettano i clienti, e mio figlio quando torna a scuola si deve sedere sul motorino dove è seduta una, magari vi immaginate come, cioè siamo... Però nessuno, cioè siamo delle voci a cui non viene data risposta, ci dobbiamo solo, non c'è io quindi dico fate di più a questi sindaci, vi prego, fate di più. Grazie Antonella, io apposta le ho dato anche un po' più tempo perché capisco benissimo chi si trova in parti di città in cui questo fenomeno è un fenomeno che dove tradizionalmente si è allocato ed non viene spiantato per somme di indisciplina nuova da parte nazionale, e poi magari perché i sindaci, anche volendo, non è che abbiano tutti questi mezzi, possono adottare le ordinanze. E allora io faccio rispondere a lei, non al sindaco di Roma, non lo abbiamo collegato, ma qual è l'esperienza del sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci? Signor sindaco, voi avete adottato questa ordinanza che è più o meno concepita come, da quanto tempo e con quali risultati? Allora, io sono partito da quest'idea. Il tema va affrontato senza ipocrisia e con grande garbo. Allora, io penso questo, che la prostituzione, comunque la giudichiamo, è un fenomeno ineliminabile. Penso che andrebbe regolamentata, ma penso anche che questo Parlamento, come il precedente, non concluderà assolutamente nulla. Tant'è vero che il disegno di legge Carfagna si è perso nei meandri del Parlamento. Esatto. E vedrà che non succederà nulla. Detto questo, noi abbiamo fatto all'inizio di quest'anno un'ordinanza che multa prostitute e clienti. Noi abbiamo un problema in particolare sulla via Adriatica, il tratto di strada che va da Ravenna a Rimini, nella zona al confine fra il comune di Ravenna e di Cervia, tant'è che abbiamo fatto un'ordinanza identica io e il sindaco Zoffoli, il sindaco di Cervia. Multe di 400 euro, noi abbiamo fatto migliaia di multe in questo anno. Migliaia. Sì, sì, sì. Guardi, adesso la cifra esatta non ce l'ho, ma siamo oltre il milione di euro. Di raccolta. Sì. Ecco, non abbiamo ancora i dati esatti di quanto pagano le prostitute, perché mentre i clienti si precipitano a pagare, come diceva il sindaco di Verona, il dato di quanto pagano. Perché diciamo, si precipitano a pagare? Per evitare che gli arrivi il verbale a casa? Alcuni arrivano, vengono anche qui in comune a cercarmi, sì, sì, sì, vanno dal mio gabinetto e vorrebbero pagare nel pugno, ma non si può, quindi sì, è abbastanza evidente. Guardi, io un anno fa ho fatto una cosa che suscitò una grande polemica nell'estate del 2008, perché così feci circolare una voce, cioè feci circolare che io avevo delle foto dei clienti, cosa che non era proprio così, ecco. In quel periodo, nella località, che non voglio nominare perché non voglio fare di cattiva pubblicità, che è nel comune di Ravenna, per una settimana sparirono zero clienti. Zero clienti. Poi io sono stato indagato, insomma, è stata una verifica del garante della privacy su denuncia dell'allora parlamentare Lussuri, e sono stato assolutamente assolto perché non avevo fatto niente di male. I risultati sono diciamo alterni, non siamo ancora riusciti, nonostante questo spiegamento di forze notevoli, vigili urbani, polizia municipale, carabinieri, forze dell'ordine. Noi abbiamo questa strada che le dicevo e due località che sono in una situazione di degrado, perché guardi, per me bisognerebbe combattere lo sfruttamento a monte e combattere il degrado a valle, perché chi fa il difficile dice ah ma siete dei bacchettoni, è perché non abiti in quelle zone. È sempre facile, una volta si diceva, io sono una persona di sinistra, fare il socialismo con i soldi degli altri, cioè. Poi invece quando il problema te lo trovi sotto casa capisci che devi assolutamente intervenire, hanno esatto. Ragione Stefano e Antonella. Lei lo sa perché era a Ravenna al premio Guidarello, certo. La scorsa settimana, vorrei dire ai nostri ascoltatori che ho firmato in questi giorni due nuove ordinanze. La prima riguarda il divieto di consumare stupefacenti in luoghi pubblici. Con questa ordinanza noi muteremo il consumo anche delle canne, diciamo, le cosiddette canne in luoghi pubblici. E la seconda multa per gli esercenti, gli adulti e le famiglie di ragazzi con meno di 16 anni che consumano alcol. Sono due ordinanze che sono state in parte condivise, in parte no, però io vorrei insomma che dicessimo chiaro e tondo che la droga fa male a tutti e che l'alcol fa male ai bambini. Certo. Sotto una certa età consumare alcol fa molto male ai bambini. E l'effetto su quel tratto di strada verso Cervia, dove in particolare si addensava sì. Il fenomeno, qual è a distanza di mesi di sanzioni a tappeto? Guardi, è migliorata un po' nella strada sull'Adriatica, ma noi abbiamo una località dove nonostante il massiccio impegno non siamo ancora riusciti a risolvere il problema. Lo devo dire onestamente perché le ordinanze in genere non sono la soluzione con la S maiuscola, certo. Sono uno strumento in più. Devo dirle che in alcune zone l'abbiamo risolta, ma c'è una zona in particolare in cui l'impegno deve assolutamente continuare, perché nonostante, ripeto, più di un milione di... Guardi, noi abbiamo fatto sicuramente nei primi sei mesi più di un milione di multe, un milione come cifra, come sborso, però ancora non abbiamo sradicato il fenomeno. Prima di salutare, siccome ovviamente Adriatica è un asse viario che attraversa tutto, ma lì il collegamento, anzi il coordinamento con tutti i sindaci da nord a sud in tutto il versante della Romagna, perché o lo si fa insieme o si sposta di 100 metri. Certo, guardi, è totale, noi abbiamo, io e il sindaco di Cervia abbiamo fatto due ordinanze di fotocopia, assolutamente identiche, perché siccome il problema si addensa al confine fra i due comuni, sarebbe un disastro se io facessi un'ordinanza e il sindaco un'altra, di Cervia un'altra o viceversa, per cui abbiamo fatto due ordinanze fotocopia esattamente identiche, c'è solo in una la parola Cervia e nell'altra la parola Ravenna. Quindi moderatamente soddisfatto, diciamo così. Sì, però l'impegno deve assolutamente proseguire. Ripeto, stiamo affrontando il problema, ma non l'abbiamo ancora risolto. Ora, grazie anche al sindaco. Grazie a lei. Grazie al sindaco di Ravenna. Una telefonata, poi le informazioni sulla circolazione stradale. Alberto d'Alessandria, rapido, Alberto, prego. Cerco di essere rapido. Io sono nato nel 58. l'anno proprio in cui è venuta fuori la famosa legge. Non posso negare di aver avuto anche io delle esperienze personali di essere andato con prostitute e averle parlato. Io pongo il problema, lo vedo il problema sotto tre aspetti. Uno è l'aspetto, diciamo, quello attualmente legato a quello che era il costume di una volta, al costume di oggi, il fatto che quello che si può sapere, si sa benissimo che una donna, una signora che lavora sulla strada ha comunque degli oneri. Ci sono delle persone che sfruttano questa situazione in questo momento, quindi la vedo un grosso sfruttamento da parte, certo, di terzi. Oltretutto le leggi attuali permettono anche di fare lavorare in casa, ma io conosco veramente determinate agenzie immobiliari che sfruttano questa situazione e facendole girare per tutta Italia, premettendo, c'è tutto un mercato, certo, di nero anche su questo sistema. C'è un problema di sicurezza nei condomini, perché so benissimo di persone che si lamentano di condomini in cui c'è gente che entra, che esce, quindi c'è anche una sicurezza all'interno di determinate abitazioni. Io quello che volevo dire, uno era appunto era questo, che c'è un sfruttamento peggiore oggi a livello personale rispetto a quello che poteva essere il fatto di dare un posto sicuro, un letto, un tetto a una persona, un controllo sanitario. Oggi come oggi ci poniamo il problema di quando uno va a farsi i tatuaggi, che deve essere un locale asettico, eccetera, eccetera, quando invece un rapporto di un certo rischio consumato su strada, io parlo da persona che fa anche il donatore di sangue, quindi è un conflitto di cose. Alberto, mi pare di capire che sia per questioni di sicurezza che per questioni di aspetti sanitari e per dignità della vita di chi poi fa questo, per tutelare lo sfruttamento, sei per legalizzare e per esercizi ad hoc. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di prostituzione, siamo partiti da questa proposta un po' provocatoria di cui si discute nel Consiglio Comunale di Lombardore, Comune fuori Torino questa sera. Il Comune dice, allora riapriamo una casa chiusa e i proventi vanno alla finanza comunale, ma è per sollevare la questione che molti sindaci, dopo il pacchetto sicurezza ministro Maroni, hanno affrontato, come abbiamo visto con il sindaco di Verona, con il sindaco di Ravenna, con sanzioni pesanti anche ai clienti. Il fenomeno, certo, si sposta di strada in strada e si sposta nei condomini. E nel frattempo un paese che non riesce a dare una regolamentazione diversa dopo la legge Merlin, che ormai è del 58, disegno di legge Carfagna perso per strada dopo a un anno dal suo annuncio, che puniva anche con sanzioni detentive gli stessi clienti. Abbiamo parlato troppo poco però anche della dignità delle prostitute e dei prostituti, perché lo Stato, a proposito di fisco, non è affatto vero che il fenomeno che non disciplina poi non chiedere tasse, perché il nostro massimario di sentenze di Cassazione, del contenzioso tributario eccetera, è pieno di casi non molto noti in cui lo Stato ha mandato belle cartelle esattoriali a prostitute, gestori di case che affittavano case dove veniva svolta attività di prostituzione eccetera, chiedendo centinaia e centinaia di migliaia di euro. E con la senatrice Donatella Poretti del Partito Radicale partirei proprio da questo, per poi allargare un secondo il focus, un secondo alla sua visione del problema. Io ricordo che la questione della dignità di chi spessissimo nelle strade viene sfruttato nel segmento basso, che però è quello più diffuso, che ha migliaia e migliaia di vittime di carne umana buttata nelle nostre strade proveniente da altri paesi, certo sono diversi punti di vista di cui occuparsene. Io ho molta ammirazione e molto rispetto per chi per esempio fa la pastorale di strada come Don Benzi, ed è da qualche anno che c'è anche un'attività non solo italiana ma coordinata a livello internazionale di gruppi di volontari cattolici, laici eccetera eccetera, però io ho scelto la senatrice Donatella Poretti perché c'è chi si batte da sempre in Parlamento mentre le forze politiche non ci sentono da questo punto di vista. Senatrice Poretti, parliamo un secondo di questa questione del fisco e poi allarghiamo un secondo la visione a tutto quello che dal suo punto di vista abbiamo toccato oggi, prego. Buongiorno, sì, è l'effetto redditometro praticamente, cioè il fisco va a fare delle indagini per vedere se una certa qualità di vita e quindi acquisto di automobili, immobili, appartamenti e quant'altro, cioè un certo stile di vita corrisponde a un reddito. Va da sé che il reddito delle prostitute che volontariamente si prostituiscono non può essere in qualche modo giustificato da un punto di vista fiscale, cioè non c'è una partita IVA da aprire, qualche modello di denuncia dei redditi da consegnare al fisco, e di conseguenza è tutto completamente reddito al nero. Ho capito, però le esattoriali vanno a contestare esattamente questo. Però non è un paradosso. Non è un paradosso che lo Stato da un certo punto non disciplini nulla e dall'altra parte si pigli le tasse come se fosse un'attività regolare? Il paradosso del quando appunto con la legge Merlin si sono chiuse le case, per ridirlo con uno slogan, ma si sono aperte decisamente le strade e si è consegnato il tutto il mercato da quello che era statale alla criminalità, però poi in qualche modo lo Stato ci ritorna di nuovo a chiedere una sorta di cresta, di pizzo, vogliamo dire, anche a fare un po' la parte del pappone quando appunto vede un reddito su cui non sono state pagate le tasse. E allora è lì interviene e dice: beh, una parte spetta a me, e però è una parte che è originata da un lavoro o da una professione che al contempo non riconosce. Perché poi alcune di queste prostitute hanno detto: sì, vabbè, io effettivamente non ho fatto la denuncia dei redditi, ma se mi dite dov'è che devo fare questa denuncia. Esatto. Io devo dire che da antistatalista non mi stupisco troppo che l'esazione richiesta dallo Stato sia simile a quella di uno sfruttatore di malavita, perché in effetti è rapina, però sai, io sono minoranza assoluta, quindi non voglio coinvolgere a lei una parlamentare e qui altrimenti poi anche da Radio 24 finisco male. Ma invece siamo decisamente minoranza. Ma invece su il dopo il disegno di legge Carfagna, lei come la vede? Dal Parlamento, come dicono i sindaci, non uscirà fuori niente neanche questa volta? Ma è il bello che anche il bello, insomma, che pure la proposta Castagna non è che risolveva assolutamente nulla, cioè induriva semplicemente la legge Merlin, ma soltanto per strada, perché rendeva reato la prostituzione per strada e metteva tra l'altro sullo stesso piano prostituta e cliente, quindi entrambi punibili, però non la regolamentava nei luoghi chiusi. Esatto. È lì, secondo me, volendo, che mancava. Ora, al di là che io non ero d'accordo con rendere un reato penale la prostituzione per strada, secondo me ci potevano essere altre strade di regolamentazione e disciplina. Il problema è che non regolamentava quella sui luoghi chiusi e quindi lasciava esattamente nella situazione un po' ipocrita nella quale siamo oggi. Ha sentito che i sindaci, più o meno, sia quelli che hanno emanato ordinanze dure dopo il pacchetto di sicurezza, sia quelle non durissime ma comunque dure, e ci sono sindaci di entrambi gli schieramenti, Ravenna era sinistra, Verona ci centrodestra, tutti dicono: noi possiamo fare qualcosa per le strade o addirittura per i condomini, ma in realtà la regolamentazione del luogo chiuso deve arrivare dal Parlamento. Allora la questione è: che cosa in Parlamento impedisce davvero che si trovi una soluzione a questo fenomeno di massa? Pruderie, ipocrisia, che cosa? Sicuramente entrambi i fattori, sicuramente quando in un paese cattolico come l'Italia, cattolico non tanto perché i cittadini sono così moralmente ligi a quelle che sono le prescrizioni della Chiesa Cattolica, ma cattolico come classe politica che risponde a ben altri interessi, ogni volta che si parla di sesso e di questi argomenti qui scende una cappa che diventa praticamente... Però Le posso dire, io ho ricordato Don Benzi, che appunto non c'è più, ma insomma chi come lui continua. Io conosco tanti cristiani cattolici che si pongono il problema di andare nelle strade per parlare con loro e farle stare meno peggio e dargli un tetto sulla testa. Io credo che sia l'ipocrisia della politica che teme di giocarsi il favore delle gerarchie, ma probabilmente nelle gerarchie ignorano che c'è anche nel Consiglio dei Migranti c'è una vera pastorale di strada. Insomma, il mio invito alla senatrice Poretti è a tentare di abbattere il muro dell'ipocrisia, che io vedo più nella politica, a dire la verità, che nella Chiesa o nei credenti, che il problema se lo pongono di queste povere donne e questi tanti anche uomini travestiti eccetera, che poi diventano, come in questo periodo, un fenomeno quasi politico, mentre invece sono un fenomeno di massa, di costume, ma bisogna porsi il problema della loro dignità senza andargli a chiedere prima le tasse di risolvere il problema della loro regolamentazione. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio in regia Filippo Aureggi, in redazione Alessandro Marco Tulli. L'appuntamento a domani, la linea al giornale radio 9 in punto.